Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, non so con che spirito state vivendo questi ultimi giorni di clima vacanziero, ma insomma siamo alla vigilia della fatale ripresa di settembre e allora vi propongo un libro che ha nel titolo proprio questo mese, settembre. Ci vediamo a settembre. L'autore è un docente di letteratura inglese all'Università Cattolica di Milano, si chiama Arturo Cattaneo e il libro è pubblicato da Sedizioni, sono 142 pagine, 13,50 euro. Ci troviamo con le pagine di questo libro nella Milano di circa 40 anni fa e siamo in un liceo classico, uno dei più famosi licei classici di Milano, e di cui viene descritto un anno attraverso le vite dei personaggi e degli insegnanti in particolare che popolavano quelle classi. E quindi è un romanzo in cui i protagonisti sfrecciano tra ormoni in subbuglio, primi accenni di contestazione, docenti odiosi ma anche professori capaci di grandi passioni, di trasmettere un grande amore per certe materie, e quindi un microcosmo assolutamente significativo di quella che è stata la scuola nei suoi anni migliori, ma anche nei quali si riflette una Milano ancora nebbiosa e operaia, una Milano che non c'è più e che proprio in quegli anni viveva la vigilia di una delle trasformazioni maggiori che avrebbe subito nel corso della sua lunga storia. E allora sentiamo l'autore. Buongiorno ad Arturo Cattaneo. Buongiorno dottor Carrubba. Che cosa l'ha attratta di più nello scrivere questo libro? Gli anni del liceo, la nostalgia per quel periodo giovanile, gli anni della contestazione, Milano che in fondo è una delle grandi protagoniste di questo libro? Ma è una risposta posteriore, perché al momento non nessuna di queste cose mi attraeva particolarmente. Ho avuto voglia, una voglia molto forte di scrivere questo libro, che era stata una genesi molto lunga dopo una rimpatriata, la classica rimpatriata a 20 anni dalla maturità. Poi al libro finito mi sono accorto che in effetti gli elementi che lei ha indicato, la Milano di quegli anni, non tanto la contestazione, perché non è un libro sulla contestazione, che è sullo sfondo più, ma la scoperta della città, la scoperta dei cinema, la scoperta della scuola, della lingua e di certi professori, di certe figure molto importanti che poi segnano per una vita. Sono state le cose forti, ecco. Ecco, fermiamoci a due protagonisti che lei ha evocato. Il primo, gli insegnanti. C'è per esempio questa figura del professor Mario Gian De Biagi, quello che dice agli alunni non fare mai dipendere la propria felicità da una sola persona, che è capace di entusiasmare, di appassionare, di trasmettere anche passione civile ai suoi studenti. Ecco, è una bella figura questa qui, è una figura rara. Dunque, è una figura rara, sì, direi di sì, nel senso che il modello, insomma, di questo professor Gian De Biagi è un grande studioso che sa infondere grande passione nei classici e li sa rendere vitali. Io scrivo che a volte attraversava i banchi saltellando e declamando Orazio, Virgilio, come fanno i giamaicani con le radio sulle spalle. Per me era raro, ovviamente, per quelli che l'hanno conosciuto. Però da telefonate, email, chiacchiere, insomma, di persone che poi hanno letto il libro, ho scoperto che in realtà di professori di questo tipo ce ne sono in Sicilia, come a Napoli, come a Torino. Una scrittrice francese mi ha mandato due righe molto carine dicendo appunto che aveva ritrovato un suo vecchio professore di filosofia in questo Mario Gian De Biagi. Quindi evidentemente sono figure che si ritrovano, per fortuna. Sopravvivono. Sopravvivono. E gli studenti sono pronti ad accogliere, diciamo, questo entusiasmo, gli studenti di oggi naturalmente? Ma io penso di sì, sono cambiate molte cose. Io sono un insegnante, come le sai, insegno letteratura inglese. Quello che lo studente sente subito è l'entusiasmo di chi parla, di chi insegna. Una cosa che il ragazzo, lo studente non sopporta, mi sembra allora come oggi, allora erano tempi anche più, forse più turbolenti, è il disinteresse oppure il parlare tanto per parlare, il ripetere una lezione, ma se lo studente, se il ragazzo sente che la persona che ha davanti crede profondamente in quello che dice, che sta cercando di dire qualche cosa per la vita e non solo per un'interrogazione, allora lo studente lo sente molto, anche oggi. Quindi gli studenti di oggi probabilmente sono più benestanti, più consumisti, più tecnologici di quelli degli anni 70, però in fondo non sono molto diversi dai loro padri o fratelli maggiori. Ma io penso di no, adesso qui ci spostiamo un po' sul, diciamo, sulla mia esperienza di insegnante, però io ho dovuto sì cambiare il modo di insegnamento negli ultimi anni, perché mi rendevo conto che erano un po' diversi, sono un po' diversi o molto diversi gli studenti di oggi dagli studenti che eravamo noi, cioè che ero io insomma in quegli anni. Però una volta che si fa lo sforzo di andare su un terreno comune e lo si fa con entusiasmo, lo studente risponde sempre. Ecco, l'altro protagonista è la Milano dei cinema. Mi ha colpito questa descrizione così puntuale di tutti i cinemini di periferia. Che impressione vedere tutti questi nomi, vero professore? Beh sì, ma perché oggi sembra un po' strano, sicuramente i più giovani. Però il cinema in quegli anni, parlo degli anni fine 60, inizio 70, cioè prima che iniziasse la televisione a tappeto, se così vogliamo dire, era veramente nelle grandi città, ma anche in provincia, un'altra scuola di iniziazione. Cioè a scuola si imparavano alcune cose, al cinema altre, i sogni passavano molto attraverso i cinema e i film, anche perché in quegli anni in televisione veniva un film alla settimana, poi due in bianco e nero, e al cinema si cominciava a sognare, si vedevano le avventure, si vedevano donne magnifiche o uomini affascinanti, se si era ragazzo ovviamente, Alain Delon era l'idolo delle mie compagne di classe di allora. E si scopriva anche tutta un'umanità nei cinema, anche perché allora c'era una gradazione dei cinema a Milano che rispecchiava in un certo modo le classi sociali. C'erano i cinema di prima visione in centro, belli, opulenti, c'erano quelli di seconda visione, c'erano quelli di terza visione, come le tre classi sui treni di una volta, e poi c'erano i cinema d'essai che davano i film di Antonioni, i film di Visconti, Truffaut, Baci rubati. Cioè, si scopriva tutta un'umanità e a volte si scoprivano anche cose, c'erano spettacolini di varietà, di avanspettacolo, spogliarello, a cui non sempre era facile essere ammessi perché bisognava avere 18 anni ufficialmente e al liceo non tutti subito hanno 18 anni. Grazie ad Arturo Cattaneo, autore di Ci vediamo a settembre. Grazie mille, dottor Carruba. Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi. Mina, con Il cielo in una stanza, ci introduce a uno dei momenti magici del romanzo che adesso vi propongo. Anche questo è un libro di formazione e precede di circa 10 anni il periodo di cui abbiamo parlato. Ci spostiamo da Milano a Roma e siamo appunto nella capitale intorno agli anni 60, tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. E il libro si intitola L'eroe del giorno ed è di Fabio Ciriachi, scrittore e traduttore, è pubblicato da Gaffi, 284 pagine, 15 euro. Insomma, siamo a Roma intorno al 1957. Per la verità siamo nel quartiere africano intorno a Viale Somalia e la precisione non è inutile perché quello rappresenta quasi un altro microcosmo. La capitale, la città, appare lontana ed estranea. La vita è ancora una vita di borgata, di paese, la vita di Ivan, tredicenne, che è il protagonista di questo romanzo, e che corre nel nuovo quartiere tantissime avventure, alcune delle quali hanno anche un epilogo drammatico, se non tragico. E queste avventure si svolgono fra campi, collinette, grotte, arbusti, stagni, e che ancora non sono stati distrutti dall'avanzata dell'edilizia, dalla sorgere dei nuovi palazzoni. Sono avventure di tutti i tipi, punteggiate anche dalla ricerca del primo amore e contrappuntate da vite familiari ancora severe, dove il padre ogni tanto, quando ci vuole, impugna anche la cinghia. Ma in quegli anni il mondo cambia, c'è il lancio dello Sputnik che esalterà il papà comunista deluso, ma non per ragioni ideologiche, ma soltanto per ragioni di carriera. La morte del papa di Pio XII che suscita la commozione della madre, che è comunista anch'ella, ma che non nasconde la propria venerazione per il pontefice, le ultime avventure di Coppi e infine la pagina più gloriosa di quegli anni per la capitale, cioè l'apertura delle Olimpiadi, di cui stiamo ricordando in questo periodo il 50° anniversario. Lentamente ma implacabilmente cambia anche la città, divorando quei luoghi fantastici nei quali si svolgevano le avventure di Ivan, e nel passare di queste avventure naturalmente cambia e matura la vita del giovane e dei suoi amici, che all'improvviso si troveranno adulti, anche con i primi amori segnati appunto dalle note di Mina. Abbiamo parlato delle Olimpiadi di Roma di 50 anni fa, che sono ricostruite nel libro di un giornalista americano, David Maranis, Roma 1960, le Olimpiadi che cambiarono il mondo. È pubblicato da Rizzoli, 492 pagine, 23 euro, ed è tradotto da Domenico Giusti. Questa è un'appassionata ricostruzione di quelle edizioni delle Olimpiadi che, secondo l'autore, furono le prime veramente moderne dei nostri tempi, perché quelle Olimpiadi di Roma segnarono un cambiamento nei giochi e segnarono anche la trasformazione che il mondo proprio in quegli anni stava vivendo. La guerra fredda era al culmine, era al vertice, c'erano nuovi protagonisti della politica mondiale e c'erano nuovi paesi che si affacciavano sulla scena mondiale che furono protagonisti proprio dei giochi olimpici di Roma. E di quei giochi l'autore ci ridà la ricostruzione parlando di tutti i suoi protagonisti, dei protagonisti non soltanto sportivi, perché uno dei maggiori protagonisti di quei giochi fu certamente la città che li ospitava, Roma. E qui Maranis ricostruisce il clima di quei giorni citando un grande giornalista sportivo italiano, Giampaolo Ormezzano, e ricorda il giudizio che gli dava di quella città in quelle settimane. La città era mortalmente afosa e incantevole. Il comitato organizzatore era così efficiente che nemmeno i tedeschi trovavano il modo di protestare. Nonostante le tensioni politiche della guerra fredda, qui sembravano prevalere la speranza e la libertà di spirito. Gli impianti erano di facile accesso, gli atleti si lasciavano avvicinare, bar e ristoranti abbondavano e c'erano storie da ascoltare e raccontare dappertutto. Insomma, una Roma veramente mitica. Di altre Olimpiadi queste precedenti si parla nel libro Correre di Jean Echenoz, è pubblicato da Adelphi, 148 pagine, 15 euro, ed è tradotto da Giorgio Pinotti. Qui andiamo indietro nel tempo, cominciamo dai giochi interalleati di Berlino del 1946, dove si mette in mostra un strano atleta che corre meglio di tutti gli altri, è cecoslovacco, si chiama Emil Zatopek e diventerà uno dei miti dell'atletica internazionale. Zatopek fu un fenomeno fisico, i medici si aspettavano anzi che prima o poi schiattasse, ma lui continuava non soltanto a correre ma anche a vincere, e in questo modo diventò uno dei simboli del suo paese, e che nel frattempo era stato assorbito dal blocco comunista. Protagonista di diverse Olimpiadi, lui stesso aderirà al partito, ma il regime continuerà a tenerlo d'occhio e a negargli spesso anzi permessi per consentirgli di partecipare a delle gare internazionali. Quando vincerà anche le Olimpiadi di Helsinki, naturalmente ritorna trionfatore nel suo paese, ma il guaio succederà nel 1968, ricorda nel libro Echenoz, quando Zatopek aderisce al movimento di Dubček, critica l'invasione sovietica e finirà per punizione come magazziniere nelle miniere di uranio. E poi lo trasferiscono a fare lo spazzino, ma quando va per strada la gente lo riconosce e lo acclama, e allora lo rinchiudono in un ufficio, salvo poi fargli sottoscrivere una lettera di pentimento che gli permetterà di recuperare la fiducia del partito e di avere l'importante incarico di archivista nel centro di documentazione sullo sport. Di questo si parla nel libro, che assume quasi tratti di un romanzo, ma che è una storia vera su uno dei grandi campioni olimpionici della nostra storia. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso del tema dell'arte contemporanea. È un tema questo che è sempre fonte di grandi polemiche. Recentemente ho letto per esempio su un giornale francese l'intervento di un famoso filosofo, Luc Ferry, il quale metteva un po' alla berlina certi comportamenti e certi atteggiamenti dell'arte contemporanea, e scrive in questo articolo Luc Ferry che ormai l'arte contemporanea si riduce alla rottura e all'innovazione, la creatività pura e l'invenzione radicale, l'originalità è alla tabula rasa del passato che si limita a mettere in scena. Da questo comportamento senza dubbio derivano le polemiche inestinguibili che suscita ancora oggi, scrive Ferri, dando voce con questa a molti dubbi che sull'arte contemporanea serpeggiano tra molte persone. E allora vi segnalo oggi alcuni titoli proprio su questo tema. Il primo, che sembra riprendere la domanda di Luc Ferri se l'arte contemporanea sia il nulla, è un libro di Francesco Bonami, che è stato direttore artistico di vari musei, collaboratore di diversi giornali, e che ha scritto Si crede Picasso, come distinguere un vero artista contemporaneo da uno che non lo è, pubblicato da Mondadori, 17 euro, 116 pagine. Questa lettura è assai provocatoria, perché Bonami passa in rassegna alcuni dei maggiori artisti, o di quelli che sono considerati dei grandi artisti, per prendersi il rischio di indicare se in effetti si tratti veramente di artisti, se si tratti di artisti veri o falsi. Ma che cosa significa per lui essere un vero artista? Ce lo spiega con queste parole: l'opera d'arte realizzata da un vero artista suscita dentro di noi una sensazione completamente diversa da quella prodotta da un millantatore. Questa sensazione non ha nessun legame con il fatto che l'opera ci piaccia o meno, ma nasce dal fatto che l'opera, fin dal primo sguardo, ci appare in qualche modo inevitabile e indimenticabile. E sulla base di questo criterio Bonami passa in rassegna diversi nomi, alcuni mostri sacri dell'arte contemporanea, e per dare su di loro un giudizio molto severo e per concludere che alcuni di questi artisti in realtà non sono dei grandi artisti e che si potrebbero anche lamentare del fatto di non essere stati giudicati tali dall'autore. Perché lo faccio, si chiede Bonami, perché mi prendo questo rischio? Perché spiega, è una questione di libertà, perché molti di questi artisti, magari presunti tali, ci affliggeranno con le loro opere che poi troveremo in molti spazi pubblici, e quindi è una questione di libertà sapere quantomeno che le opere che vengono esposte di cosiddetti grandi artisti spesso non sono affatto tali. E quindi qua, ripeto, troverete tanti nomi, alcuni notissimi. Da questi nomi vi segnalo queste righe, che sono delle righe positive su un artista che è scomparsa recentemente, la francese Louise Bourgeois. Il suo obiettivo è di disturbare il sonno degli spettatori facendoli piombare nel proprio inconscio come una Freud dell'arte. Come persona sono una vittima, ma come artista sono un'assassina. Così si è definita la Bourgeois in un'intervista. L'arte è per questa parigina in America lo specchio della vita. Io sono quello che faccio, ha dichiarato. Quindi ora una lupa di marmo, ora una spirale di alluminio, ora una sfera di pietra o un corpo di bronzo dorato. Tutto sotto le fattezze di una nonna con la curiosità di un'Alice nel Paese delle Meraviglie, o meglio, nel Pozzo degli Incubi. Se nascendo a Natale non fece un bel regalo al padre, che voleva il bimbo con il pistolino, è stata sicuramente un'eterna sorpresa per il mondo dell'arte, sul quale continua a sparare la sua vena con la potenza e l'imprecisione delle cannonate. Quando va a segno è micidiale. Quando manca il bersaglio, a volte sono disastri. La guerra della vita per questo invincibile mammo dell'arte è lunga, ma i veri artisti sono quelli che vincono alla distanza, non negli sprint di riscaldamento. Un altro autore che vuole andare su questo tema controcorrente è Luca Beatrice, che è stato tra l'altro il curatore del Padiglione Italia all'ultima Biennale di Venezia. Il suo libro si intitola Da che arte stai? Una storia revisionista dell'arte italiana. Rizzoli, 240 pagine, 16,50 euro. Non so se i due autori che sto citando gradiscono l'accostamento. Beatrice nel suo libro parla anche di Bonami, che anzi così descrive: conosce e frequenta il goto dell'arte mondiale, ma gode di più quando può dar sfogo alla sua vis polemica contro i colleghi italiani. Negli ultimi tempi anche il sottoscritto, cioè Beatrice, è entrato nel ristretto Olimpo delle vittime del simpatico Checco, cioè Bonami. Il meglio lo dà come divulgatore dell'arte contemporanea. Ha scritto divertenti instant book, ama il paradosso. Ma questo era una digressione. A parte la polemica con Bonami, infatti, Beatrice vuole ripercorrere l'arte italiana a partire dagli anni Ottanta. Un'arte che è stata molto ricca, molto più ricca di quanto comunemente si pensi. Una certa operazione culturale infatti ha voluto venisse ridotto quella vitalità e quella ricchezza dell'arte moderna italiana soltanto al movimento dell'arte povera. Scrive infatti Beatrice che l'arte povera diventa l'arte ufficiale italiana, l'unica a essere proposta nei musei d'arte contemporanea, addirittura se ne costruisce di propri e a rappresentarci all'estero, così potente da condizionare il giudizio generazione dopo generazione fino ad oggi. Invece ci sono stati tanti altri movimenti che hanno arricchito l'arte italiana, dei movimenti che all'inizio avevano sede soprattutto a Roma, la capitale barocca, la descrive in questo modo Beatrice, la capitale barocca e decadente, molto più intrigante del nord industrializzato, un buon ritiro quando molti artisti non sono in giro per il mondo. E poi però verrà la volta di Milano e anche tante altre esperienze di provincia nelle quali si manifesta la vitalità dell'arte italiana. E quindi scorrono nel libro di Beatrice le istantanee sui grandi appuntamenti, soprattutto le Biennali di Venezia, sui grandi protagonisti dell'arte contemporanea italiana, non soltanto gli artisti ma anche i galleristi, i collezionisti. Degli artisti vi segnalo queste righe sul quello che forse oggi è il più famoso artista italiano all'estero, non soltanto, e cioè Maurizio Cattelan. Genio o cialtrone? Impostore o talentaccio? Cinico o autentico? Sono quasi 20 anni che di fronte ai lavori di Maurizio Cattelan non sappiamo che posizione prendere. Quantomeno il dubbio ci pervade costantemente. Cattelan ci fa o ci è? Alcuni fatti sono incontestabili. Ha avuto un successo strepitoso, mediatico ed economico. Si è fatto da sé, ha sfruttato al meglio le opportunità capitategli. È un eccezionale comunicatore, scatena sempre discussioni feroci e opposte fazioni. Ma di chi stiamo parlando? Di Maurizio Cattelan o di Silvio Berlusconi? Registrata la perfetta coincidenza temporale tra il cattelanismo e il berlusconismo, si può affermare che senza la rivoluzione a 360 gradi del Cavaliere rispetto alla vecchia politica e al rapporto di essa con i media, uno come Cattelan sarebbe passato inosservato. Se la nostra non fosse la civiltà dell'immagine, dello spettacolo, dell'apparenza, ma fossero ancora valide le categorie di un tempo, quelle degli anni 60, per intenderci, Cattelan forse non avrebbe nemmeno diritto di cittadinanza nel mondo dell'arte. Il settore dell'arte contemporanea è sempre più dominato e condizionato dai grandi collezionisti e dai mercanti. Uno dei più famosi è certamente Charles Saatchi, fondatore prima di quella che diventò la maggiore agenzia pubblicitaria al mondo e poi trasformatosi in uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea, il cui tempio è rappresentato dalla Saatchi Gallery che ha ricavato dall'ex comando dell'esercito britannico. Di Charles Saatchi esce da Phaidon: mi chiamo Charles Saatchi e sono un art-olico. 176 pagine, 9,95 euro, tradotto da Cristina Ribacchi. Artolico è un neologismo per sottolineare la grande passione, la passione divorante per l'arte. In questo libro Saatchi raccoglie svariate domande che gli sono state poste non soltanto da critici e appassionati d'arte, ma anche da gente comune. E questa insolita intervista quasi casuale dà la possibilità all'autore di spiegare la propria filosofia di mercante, di collezionista e di appassionato di arte contemporanea. Anche sui galleristi Charles Saatchi è severo, però ne spiega il ruolo quando fa un giochino mettendo due artisti inglesi a confronto, uno che è stato venduto a 3.500 sterline e l'altro che è stato venduto a 433.600 sterline. Secondo l'autore, tra i due in fondo non c'è un'abissale differenza. E se il fatto avesse dato a quello da 3.500 sterline i giusti contatti, se lo avesse condotto nella galleria giusta, nelle giuste collezioni e mostre, e lo avesse infine affidato al più importante gallerista del mondo per farne una super celebrità, come il fatto ha fatto con l'altro artista, le cifre potrebbero essere invertite, ammette Saatchi. Ma credetemi, aggiunge, il talento da solo non garantisce il successo, ne spiega perché alcuni artisti mediocri diventano mostruosamente popolari per un po', mentre artisti migliori deperiscono aspettando una chiamata che non verrà. Il confettino. Eravamo a Londra nella galleria di Charles Saatchi, restiamo da quelle parti con il libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler che raccontano e illustrano la storia di Bigio Randagio. Il libro è pubblicato da M Edizioni, 12,90 euro, ed è tradotto da Laura Pelaschiar. Qui abbiamo un vecchio menestrello rock che perde il gatto che lo accompagnava nelle sue performance, un gatto che si farà una famiglia nel frattempo, salvo naturalmente pensare sempre al suo vecchio padrone e ricostituire alla fine la coppia che diverte i turisti londinesi. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potrete sempre ascoltare questa trasmissione e tutte le altre della nostra radio. Questa trasmissione in particolare andrà in replica sabato alle 16.30. Buona domenica a tutti e a risentirci la settimana prossima.